Capitolo 38. Mr. Kirkpatrick. Con Molly, Cinzia era sempre uguale, gentile, dolce, servizievole, pronta a professare tutto il suo affetto per lei e probabilmente nutrendolo davvero più che nei confronti di chiunque altro al mondo. Ma Molly era sopraggiunta a questo superficiale livello di amore e di intimità durante le prime settimane dell'arrivo di Cinzia a casa di suo padre, e se la sua natura fosse stata incline ad analizzare il carattere di una persona alla quale voleva molto bene, ella avrebbe forse percepito che, nonostante tutta l'apparente franchezza di Cinzia, esistevano certi limiti oltre i quali la sua confidenza non si spingeva, dove cominciava invece il suo riserbo e la sua vera anima era avvolta nel mistero. Per esempio, il suo rapporto con Mr. Preston risultava spesso molto strano agli occhi di Molly. Era sicura che tra loro ci fosse stata in passato ad Ashcombe un'intimità molto maggiore e che quel ricordo fosse frequentemente irritante e tormentoso per Cinzia, che desiderava evidentemente dimenticarsene tanto quanto il giovane era ansioso di rimembrarglielo. Ma perché questa amicizia si fosse interrotta, perché ora a Cinzia lo risultasse così sgradevole e molte altre circostanze mai chiarite connesse a questi due fatti, erano segreti di Cinzia, che riusciva bene a vanificare tutti gli innocenti tentativi di Molly, compiuti nel primo ardore del suo legame con lei, di conoscere gli antefatti della sua vita adolescenziale. Ogni tanto Molly si trovava di fronte a un muro che non poteva oltrepassare, perlomeno con i delicati strumenti che erano gli unici che desiderava utilizzare. Forse Cinzia le avrebbe potuto rivelare tutto ciò che c'era da rivelare, se pressata da una più insistita curiosità, che sapesse come approfittare di ogni lapsus e di ogni accesso di malumore ai fini della propria gratificazione. Ma quello di Molly era un interesse dettato dall'affetto, non il rozzo desiderio di sapere ogni cosa per il gusto di un po' di eccitazione. E non appena si accorse che Cinzia non gradiva riferirle alcunché a proposito di quel periodo della sua vita, Molly smise di farvi riferimento. Ma sebbene Cinzia avesse mantenuto un atteggiamento dolce e quieto e un'instancabile gentilezza nei confronti di Molly durante l'inverno in questione, al momento ella era la sola persona verso la quale i modi della bella fossero rimasti immutati. L'influenza di Mr. Gibson le aveva fatto bene finché ella sapeva di piacergli. Aveva tentato di tenersi stretta la sua buona opinione e in sua presenza aveva messo un freno ai commenti sarcastici indirizzati alla madre e a molte deviazioni dalla verità assoluta. Ora ella era preda di una costante irrequietezza che la rendeva più scostante che mai, e persino la sua ammiratrice, Molly, non poteva fare a meno di accorgersi delle palesi ambiguità da lei dimostrate quando qualcosa nelle parole o nel comportamento di Mr. Gibson la colpiva troppo duramente. Le risposte argute alla madre erano meno frequenti di un tempo, ma spesso nel suo atteggiamento Mrs. Gibson si riscontrava un'insolita irascibilità. Questi mutamenti di umore e di temperamento, qui descritti tutti in una volta, costituivano una serie di lievi alterazioni della condotta verificatesi nel corso di molti mesi invernali, di serate lunghe e di brutto tempo, che stuzzica le divergenze caratteriali come un getto d'acqua fredda riporta in vita i colori languenti di un vecchio affresco. Per gran parte di quel periodo, Mr. Preston era stato ad Ashcombe. Lord Kemnor, infatti, non era riuscito a trovare un intendente di suo gradimento che potesse sostituirlo e, mentre la posizione inferiore restava vacante, Mr. Preston svolgeva le funzioni di entrambi i ruoli. Mrs. Goodenough era stata molto malata e la piccola società di Hollingford non si era preoccupata di riunirsi, mentre una componente del solito gruppo non si trovava ancora fuori pericolo. Perciò le visite erano state rare. E benché Miss Browning sostenesse che l'assenza delle tentazioni mondane fosse molto gradevole per le menti colte, dopo le dissipazioni dell'autunno precedente, quando ogni settimana c'era stata una festa in onore di Mr. Preston, tuttavia Miss Phoebe si lasciò sfuggire in confidenza che lei e la sorella avevano preso l'abitudine di andare a letto alle 9, perché trovavano che il gribbage, giocato sera dopo sera, dalle 5 alle 9, fosse abbastanza. A dire la verità, quell'inverno, sebbene pacifico, fu monotono a Hollingford e l'intera cerchia delle signore si sentì molto eccitata quando in marzo ricevette la notizia che Mr. Kirkpatrick, appena nominato avvocato della corona, stava per venire a far visita per un paio di giorni alla cognata, Mrs. Gibson. La stanza di Mrs. Goodenough fu un vero centro di pettegolezzi. Il pettegolezzo era stato il suo pane quotidiano per tutta la vita e adesso doveva costituire la sua carne e il suo vino. Ah, povera me, disse la vecchia signora, sedendosi più eretta nella sua poltroncina, sostenendosi con le mani sui braccioli. Chi l'avrebbe detto che avesse un po' di parentele? Beh, Mr. Ashton mi disse una volta che un avvocato della corona ha le possibilità di diventare giudice quanto un micino di diventare un gatto. Pensare che lei possa essere una specie di sorella di un giudice? Una volta ne ho visto uno e so che ho pensato che non avrei potuto desiderare un mantello invernale migliore di quello che mi sarei potuta fare con i suoi vecchi abiti se solo avessi scoperto dove potermeli procurare di seconda mano. E so che lei, quando viveva ad Ashcombe, portava abiti di seta rovesciata, ritinta, ripulita e per quanto ne so, rigirata un'altra volta. E oltretutto dirigeva una scuola e con un parente prossimo che sarebbe diventato avvocato della corona. Beh, di certo non era un granché come scuola, solo 10 signorine nei tempi migliori. Così forse lui non ne ha mai sentito parlare. Mi domando cosa gli daranno da mangiare per cena, osservò Miss Browning. È un periodo sfortunato per i visitatori. Non c'è selvaggina, l'agnello quest'anno è arrivato tardi e i polli quasi non si trovano, né per amore né per denaro. Dovrà accontentarsi di destine di vitello, ecco, sentenziò solennemente Mrs. Goodenough. Se stessi bene come al solito, compierei la ricetta di mia nonna per il rollè di testa di vitello e la manderei a Mrs. Gibson. Il dottore è stato molto gentile con me nel corso di tutta la mia malattia. Vorrei che mia figlia, a come me, mi spedisse qualche polletto autunnale. Li darei al dottore, sì, lo farei. Ma li ha ammazzati e me li ha mandati tutti. E l'ultimo che è arrivato mi ha scritto che era proprio l'ultimo. Mi chiedo se daranno un ricevimento in suo onore, suggerì Miss Febe. Mi piacerebbe una volta nella vita incontrare un avvocato della corona. Ho visto gli uomini col giavellotto, ma questa nel campo della legge è la figura più importante che abbia visto. Naturalmente inviteranno Mr. Ashton, disse Miss Browning, le tre grazie nere, la legge, la scienza e la religione, come dice la canzone. Ogni volta che si prevede una seconda portata, il parroco viene sempre invitato dalle famiglie che contano. Chissà se è sposato, fece Mrs. Goodenough. Anche Miss Phoebe se l'era chiesto, ma non aveva ritenuto opportuno dirlo ad alta voce neanche a sua sorella, che era la fonte dell'informazione, giacché mentre era diretta a casa di Mrs. Goodenough aveva incontrato Mrs. Gibson per la strada. Sì, è sposato e deve avere diversi figli, perché Mrs. Gibson mi ha detto che Cinzia Kirkpatrick fece loro visita a Londra per far lezione con i cugini e ha detto che la moglie era una donna molto ben educata, di buona famiglia anche, per quanto non gli abbia portato in dote una gran fortuna. Di certo è una parentela degna di elogio. Mi domando solo come mai ne abbia sentito parlare così poco finora, si interrogò Mrs. Goodenough. A una prima occhiata non avrei pensato che Mrs. Gibson fosse tipo da tenere nascosto un parente altolocato. Invero, in quanto a questo, tutti noi amiamo mettere in mostra il lato migliore della stoffa. Mi ricordo, parlando di stoffa, di quante volte mi sono risistemata le gonne per spostare uno scolorimento o una macchia di grasso dalla parte del povero Mr. Goodenough. Aveva un cuore buono e gentile quando ci sposammo e disse quel giorno: Patty, metti il tuo braccio destro sopra il mio sinistro, così mi starai più vicina al cuore. E poi abbiamo mantenuto quell'abitudine quando, povero uomo, aveva molto più da pensare che non a fare il romanticone riguardo al lato del cuore. Così, come ho detto, spostavo sempre la stoffa rovinata a destra e quando camminavamo a braccetto, e lo facevamo sempre, non se ne accorgeva nessuno. Non mi meraviglierei se invitasse Cinzia a fargli di nuovo visita a Londra, suggerì Miss Browning. Se l'ha fatto quando era povero, è 20 volte più probabile che lo rifaccia ora che è avvocato della corona. Sì, per la regola dei tre, lei ha buone possibilità. Spero solo che non si monti la testa. Andare in visita a Londra alla sua età. Beh, io ho compiuto 50 anni prima di andarci. Ma lei è stata in Francia? È una ragazza che ha viaggiato molto, interloquì Miss Febe. Mrs. Goodenough scosse la testa per un intero minuto prima di dar voce ai suoi pensieri. È un rischio, affermò. Un grosso rischio. Non mi piace parlare così al dottore, ma se fossi lui, non vorrei che mia figlia stesse guancia a guancia con una ragazza cresciuta dove sono nati Robespierre e Bonaparte. A Bonaparte era corso, la corresse Miss Browning, che era molto più in là di Mrs. Goodenough, sia per conoscenza che per apertura mentale. E relazionarsi con i paesi stranieri offre una grande opportunità di erudizione. Io ammiro sempre la grazia dei movimenti di Cinzia. Non è mai troppo timida per parlare, però non si mette neanche in mostra. È di grande aiuto durante una festa. E se è vero che si dà un po' di aria, beh, è naturale alla sua età. Invece, per quanto riguarda Molly, è un po' maldestra. L'ultima volta che c'è stata una riunione a casa nostra, ha rotto una delle nostre migliori tazze di porcellana e ha versato il caffè sul tappeto nuovo. E poi, tutta confusa, non ha fatto altro che star seduta in un angolo e tacere per tutto il resto della serata. Era così dispiaciuta per ciò che aveva fatto, sorella. Intervenne Miss Febe in tono di gentile reprimenda. Lei era sempre leale nei confronti di Molly. Beh, e io cosa ho detto? Che non le dispiaceva? Ma c'era bisogno che dopo se ne restasse lì come una stupida per tutta la sera? Ma tu sei stata piuttosto brusca, eri così infastidita. E penso sia mio dovere essere brusca, sì, e anche contrariata quando vedo la sbadataggine dei giovani. E quando vedo chiaramente qual è il mio dovere, io lo eseguo. Non sono una che si tira indietro e loro dovrebbero essermi riconoscenti. Non tutti si prenderebbero la briga di rimproverarli, come Mrs. Goodenough sa bene. Sono molto affezionata a Molly Gibson, molto, a lei e al ricordo di sua madre, ma sono sicura di non pensare che valga 6 volte Cinzia. Nonostante tutto, non dovrebbe rompere la mia migliore tazza da tè di porcellana e poi star seduta senza far niente per animare la serata. A questo punto, Mrs. Goodenough dava chiari segni di stanchezza. La goffaggine di Molly e le tazze da tè infrante di Miss Browning non erano argomenti di conversazione interessanti come la nuova scoperta della fortuna di Mrs. Gibson, che aveva come parente un avvocato londinese di successo. Mr. Kirkpatrick aveva, come molti altri uomini, lottato nella sua professione e portava il peso di una famiglia numerosa sulle spalle. Era ben disposto a fare dei favori ai suoi parenti, se ciò non comportava perdite di tempo e se, il che forse era una condizione primaria, si ricordava della loro esistenza. La visita di Cinzia ad Oatley Street, 9 o 10 anni prima, non l'aveva particolarmente impressionato, dopo che lui ne aveva suggerito la fattibilità alla sua mite consorte. Ogni tanto egli si sorprendeva alquanto della comparsa di una bella ragazzina tra i propri figli che marciavano in direzione del dessert e doveva farsi tornare in mente chi lei fosse. Ma già che era sua abitudine lasciare la tavola quasi immediatamente per ritirarsi in una stanzetta sul retro, che veniva definita il suo studio, e immergersi nelle sue carte per il resto della sera, la bambina non gli era rimasta impressa nella memoria. E probabilmente la volta successiva che si ricordò della sua esistenza fu quando Mrs. Kirkpatrick gli scrisse pregandolo di accogliere Cinzia per una notte durante il suo viaggio verso la scuola a Boulogne. La stessa richiesta fu ripetuta per il suo ritorno, ma accadde che lui non la vide nessuna delle 2 volte e ricordava solo qualche vaga osservazione fatta lì da sua moglie in una di queste occasioni, e cioè che le pareva piuttosto azzardato far fare a una ragazzina così giovane un viaggio così lungo senza predisporre delle migliori misure di sicurezza di quelle scelte da Mrs. Kirkpatrick. L'uomo sapeva che la moglie avrebbe compensato a tutte le mancanze a riguardo se Cinzia fosse stata figlia sua e non ci pensò più fino a quando non ricevette l'invito a partecipare alle nozze di Mrs. Kirkpatrick con Mr. Gibson, il molto stimato medico di Hollingford, eccetera, eccetera. Un'attenzione che lo irritò anziché lusingarlo. Quella donna pensa che io non abbia altro da fare che correre per il paese all'inseguimento di spose e sposi? Con questo importante caso, Houghton contro Houghton, ci si avvicina. Io non ho un momento da perdere, disse la moglie. Magari lei non ne ha mai sentito parlare, suggerì Mrs. Kirkpatrick. Sciocchezze, i giornali ne parlano da giorni. Però lei forse non sa che tu sei coinvolto. Forse no, ammise lui meditabondo. Una simile ignoranza era possibile. Ora però, l'importante caso Houghton contro Houghton era acqua passata. Per La dura battaglia si era conclusa. La relativa elevazione a titolo di avvocato era stata conquistata e Mr. Kirkpatrick aveva tempo per i sentimenti parentali e per i ricordi. Un giorno, durante le vacanze di Pasqua, egli si trovava nei dintorni di Hollingford. Avendo una domenica libera, scrisse ai Gibson per offrirsi di essere ospitato dal venerdì al lunedì, esprimendo con una certa forza, ma la sentiva un po' meno, la volontà di conoscere Mr. Gibson. Mr. Gibson, per quanto spesso oberato di lavoro, era sempre ospitale e inoltre era un piacere per lui liberarsi di quell'atmosfera mentale un poco ristretta che respirava di continuo e prendere una boccata d'aria nuova, dare un'occhiata a ciò che accadeva nel gran mondo, al di là dei suoi personali limiti quotidiani di pensiero ed azione. Così era ben disposta a dare un cordiale benvenuto al suo sconosciuto parente. Mrs. Gibson era tutta agitata e sentimentalmente deliziata, cosa che lei interpretava come affetto familiare, che però non sarebbe stato così effervescente se Mr. Kirkpatrick fosse rimasto nella sua precedente posizione di avvocato rampante con 7 figli residenti ad Audley Street. Quando i due gentiluomini si incontrarono, furono attratti reciprocamente da una somiglianza di carattere, dimostrando giusto quella differenza di opinioni che rendeva l'esperienza dell'altro, sulla quale quell'opinione si basava, preziosa per l'altro. Mrs. Gibson, a dispetto del legame esistente, ebbe un ruolo ben misero nel loro rapporto. Mr. Kirkpatrick le si rivolgeva molto educatamente e in effetti era contento che lei avesse fatto una scelta così saggia come sposare un uomo intelligente e simpatico che era in grado di garantirle ogni comodità e che si comportava tanto generosamente con sua figlia. Molly lo colpì per il suo aspetto delicato. Sarebbe stata molto graziosa se fosse apparsa più in salute e più allegra. Invero, osservandola criticamente, il suo viso aveva dei particolari molto belli: dolci occhi, grigi allungati, ciglia nere curvate, rare fossette, denti perfetti. Ma si percepiva una debolezza generale o una lenta depressione nei modi di fare che contrastava sfavorevolmente con la luminosa cinzia, che era frizzante, vivace, aggraziata e arguta. Mr. Kirkpatrick, come ebbe a dire in seguito a sua moglie, si innamorò perdutamente di quella ragazza. E Cinzia, che riusciva a conquistargli estranea come una bambina di 3 o 4 anni, colse l'occasione. Si dimenticò di tutte le sue preoccupazioni e del suo sconforto, non si ricordò più del rimpianto per aver perso la buona opinione di Mr. Gibson. E si mise ad ascoltare con entusiasmo, rispondendo con dolcezza e talvolta con ingenue e amene facezie, finché Mr. Kirkpatrick cadde del tutto nella sua rete. Lasciò Hollingford quasi sorpreso di aver trovato piacevole fare il proprio dovere. Per Mrs. Gibson e Molly, egli provava un sentimento amichevole, ma non sarebbe stato un problema se non le avesse mai più riviste. Per Mr. Gibson, però, nutriva un caloroso rispetto e una simpatia fortissima, che gli sarebbe piaciuto veder maturare in amicizia, se ci fosse stato tempo per farlo in questo mondo frenetico. Inoltre, era del tutto risoluto a vedere di più Cinzia. Sua moglie doveva conoscerla. Dovevano fare in modo che lei andasse a stare da loro a Londra e che ella vedesse qualcosa del mondo. Però, tornando a casa, Mr. Kirkpatrick trovò così tanto lavoro ad attenderlo che dovette richiudere a chiave la sua nascente amicizia e i suoi gentili progetti in un sicuro ripostiglio della mente e dedicarsi anima e corpo alla sua professione. In maggio, tuttavia, egli ebbe modo di accompagnare sua moglie alla mostra annuale della Royal Academy e un ritratto che vide lo colpì per la somiglianza con Cinzia. Raccontò allora alla moglie un po' di più di lei e della visita a Hollingford, di quanto avesse avuto il tempo di fare in precedenza. Il risultato fu che il giorno dopo una lettera fu spedita a Mrs. Gibson per invitare Cinzia a far visita ai suoi cugini londinesi e ricordare insieme tanti piccoli fatti accaduti quando da bambina aveva trascorso quel periodo insieme a loro e che avevano mantenuto viva l'amicizia fino al presente. Quella lettera fu accolta in modi diversi dalle 4 persone sedute intorno al tavolo della colazione. Mrs. Gibson la lesse prima per conto proprio. Poi, senza rivelarne i contenuti, così che il suo pubblico era completamente all'oscuro dell'evento al quale le sue osservazioni facevano riferimento, disse: «Penso si sarebbero dovuti ricordare che io appartengo a una generazione più vicina alla loro rispetto a lei. Oggigiorno nessuno pensa all'affetto familiare. E a me lui è piaciuto tanto. Ho comprato un nuovo libro di cucina e ho reso tutto piacevole, gradevole, simile a ciò a cui lui è abituato». Il tutto fu espresso con tono di voce lamentoso e addolorato, ma poiché nessuno sapeva a cosa alludesse, era difficile offrirle consolazione. Suo marito fu il primo a replicare. Se vuoi che simpatizziamo con te, dici qual è la natura delle tue sofferenze. Beh, oserei dire che è qualcosa che lui intende come una grande gentilezza. Solo che penso che io sarei dovuta essere invitata prima di Cinzia, rispose lei rileggendo la lettera. Chi è lui? Cosa intendi per gentilezza? Mister Kirkpatrick, ovviamente. Questa lettera è sua. Vuole che Cinzia vada a fargli visita e non dice niente né di me né di voi, mio caro. E di certo noi abbiamo fatto del nostro meglio per fargli piacere e penso che avrebbe dovuto invitare prima noi. Visto che io non ci sarei proprio potuta andare, per me fa poca differenza. Ma io sì, e comunque avrebbe dovuto chiedercelo per cortesia, capite? È un segno di rispetto molto conveniente. Che ingratitudine, dopo che per lui ho rinunciato al mio spogliatoio. E io mi sono cambiata per cena ogni sera in cui è stato qui, se dobbiamo ricapitolare tutti i sacrifici fatti per lui. Ciò nondimeno, io non mi aspetto di essere invitato a casa sua. Sarò fin troppo felice se vorrà tornare qui. Ho tutta l'intenzione di non dare a Cinzia il permesso di andare, rifletté Mrs. Gibson. Non posso andarci, mamma, commentò Cinzia arrossendo. I miei abiti sono tutti sciatti e il mio vecchio cappellino deve durarmi tutta l'estate. Beh, ma puoi acquistarne uno, e di certo è ora che tu abbia un altro abito di seta. Devi aver risparmiato molto perché non mi ricordo quando tu ti sia comprata qualcosa di nuovo. Cinzia iniziò a dire qualcosa, ma si interruppe. Continuò a imburrare la propria fetta di pane tostato, ma la tenne in mano senza mangiarla, senza neanche sollevare lo sguardo. Poi, dopo un paio di minuti di silenzio, riprese. Non posso. Mi piacerebbe molto, ma davvero non ci posso andare. Per favore, mamma, scrivi subito, declina l'invito. Sciocchezze, figliola! Quando un uomo nella posizione di Mr. Kirkpatrick si fa avanti per offrire un favore, non sta bene rifiutare senza dare una giustificazione sufficiente. È stato così gentile da parte sua, poi. Poniamo che tu ti offri di andare al posto mio, propose Cinzia. No, no, questo non va bene, dichiarò deciso Mr. Gibson. Non puoi trasferire un invito in questo modo. Però, veramente, Cinzia, questa scusa dei vestiti sembra proprio insignificante se non hai altre ragioni da addurre. Per me è una ragione concreta, reale, gli rispose Cinzia guardandola in faccia. Dovete permettermi di giudicare da sola. Non sarebbe giusto che andassi laggiù male in arnese, perché anche ad Auty Street, mi ricordo, la zia era molto puntigliosa riguardo all'abbigliamento. E ora che Margaret e Helen sono cresciute ed escono così di frequente, vi prego, non aggiungete altro, perché io sono convinta che non sarebbe giusto. Cosa ne hai fatto di tutti i tuoi soldi? Mi domando, intervenne Mrs. Gibson. Hai 20 sterline all'anno, grazie a Mr. Gibson e a me, e di certo non ne hai spese più di 10. Non avevo molto quando sono tornata dalla Francia, confessò Cinzia a bassa voce ed evidentemente turbata da quella domanda. Per favore, decidiamo una volta per tutte. Non posso andarci e la faccenda è chiusa. Si alzò e lasciò improvvisamente la stanza. Io non ci capisco niente, disse Mrs. Gibson. E tu, Molly? No. So che non le piace spendere denaro per gli abiti e sta molto attenta. Così rispose Molly. E poi temette di aver combinato un guaio. Allora i soldi li deve avere da qualche parte. Sono sempre stata convinta che se uno non ha abitudini stravaganti e non vive al di sopra delle proprie possibilità, alla fine dell'anno una certa sommetta gli deve rimanere. Non l'ho detto spesso, Mr. Gibson? Probabilmente. Bene, allora applichiamo questo ragionamento al caso di Cinzia. Dunque, chiedo, che fine hanno fatto i soldi? Non so dirlo, rispose Molly, notando di essere stata interpellata. Forse li ha dati a qualcuno che ne ha bisogno. Mr. Gibson ripose il suo giornale. È chiaro che non ha né il vestito né il denaro necessario per questa visita a Londra. E che non vuole che le si facciano ulteriori domande sull'argomento. In effetti, le piacciono i misteri, mentre io li detesto. Eppure, penso sia opportuno per lei riprendere i rapporti o l'amicizia o qualunque cosa sia con la famiglia di suo padre. Le darò volentieri 10 sterline. E se non è abbastanza, beh, una di voi due deve darle una mano, altrimenti farà a meno dell'uno o dell'altro accessorio superfluo. Garantisco che non è mai esistito un uomo gentile, caro e generoso come voi, Mr. Gibson, affermò la moglie. Pensare che siete il suo patrigno. Siete così buono con la mia povera figliola orfana. Ma, Molly, mia cara, penso ammetterai che anche tu sei molto fortunata con la tua matrigna. Non è vero, amor mio? Che felicità tatetata avremo io e te quando Cinzia sarà a Londra. Mi sa quasi che vado più d'accordo con te che con lei, con tutto che lei è mia figlia. Infatti, come dice il caro papà molto giustamente, lei ha un certo amore per i misteri. E se c'è qualcosa che io odio è anche la minima riservatezza, la seppur minima segretezza. 10 sterline. Beh, questo la convincerà. Potrà comprarsi un paio di vestiti e un nuovo cappellino, e non so che altro. Caro Mr. Gibson, come siete generoso. Qualcosa molto simile a un po' uscì come un grugnito da dietro il giornale. Posso andare a dirglielo? Chiese Molly alzandosi. Sì, vai, amor mio. Dille che sarebbe molto ingrato rifiutare e dille che tuo padre desidera che vada. E dille anche che sarebbe proprio un errore non approfittare di una disponibilità che un po' alla volta potrebbe essere estesa al resto della famiglia. Di certo, se mi avessero invitata, cosa che dovrebbero fare senza dubbio, non dirò prima che lo chiedessero a Cinzia, perché io non penso mai a me stessa e sono veramente la persona più disposta al perdono in tutto il mondo, nel perdonare i torti. Ma insomma, quando mi inviteranno, cosa che faranno di sicuro, non sarò mai contenta finché mettendo una pulce qua e una là, non li avrò convinti a mandare un invito anche a te. Un mese o due a Londra ti farebbero un gran bene, Molly. Molly aveva lasciato la stanza prima della fine del discorso e Mr. Gibson era occupato con il suo quotidiano. Ma Mrs. Gibson finì di parlare con se stessa e con grande soddisfazione. Dopotutto, infatti, era sempre meglio che qualcuno della famiglia, anche se la persona sbagliata, andasse in visita, piuttosto che aver rifiutato del tutto, e così non avere mai l'opportunità di parlarne. Come Mr. Gibson era stato tanto gentile con Cinzia, così lei lo sarebbe stata con Molly. L'avrebbe fatta vestire bene e avrebbe invitato a casa dei giovanotti. Avrebbe fatto, insomma, tutte quelle cose che Molly e suo padre non volevano che facesse, gettando i soliti vecchi ostacoli sulla strada della loro confidenza, che era l'unica cosa che essi desiderassero. Una confidenza piena, libera, senza il costante timore della sua gelosia. Capitolo 39. Trapelano pensieri e segreti. Molly trovò Cinzia in salotto, in piedi, a guardare il giardino dal bovindo. Si riscosse quando Molly le si avvicinò. Oh, Molly, le disse, tenendo le braccia verso di lei. Sono sempre tanto felice di averti con me. Erano esplosioni d'affetto come questa che inducevano sempre Molly a tornare da lei. Se mai le capitava di mettere in dubbio inconsapevolmente la propria fedeltà a Cinzia. Mentre era seduta di sotto, aveva desiderato che Cinzia fosse meno riservata, che non avesse tutti quei segreti, ma ora l'averla voluta diversa da com'era le appariva quasi un tradimento. Mai nessuno aveva avuto più di Cinzia il potere di cui parlava Goldsmith quando scrisse: gettava via i suoi amici come un cacciatore lascia cadere il suo zaino, perché sapeva che quando voleva poteva fischiare e riaverli con sé. Sai, credo sarai felice di sentire ciò che ho da dirti, iniziò Molly. Penso che ti piacerebbe proprio tanto tornare a Londra, non è vero? Sì, ma ciò che vorrei è perfettamente inutile, osservò Cinzia. Non cominciare, Molly, perché la questione è decisa. E non posso dirti il perché, però non ci posso andare. Si tratta solo di soldi, cara? E papà è stato così gentile in proposito. Vuole che tu vada. Pensa che dovresti coltivare le tue amicizie e ha intenzione di regalarti 10 sterline. Com'è gentile! Esclamò Cinzia. Ma non dovrei accettarle. Vorrei avervi conosciuti anni fa. Sarei diversa da ciò che ora sono. Non pensarci. A noi piaci così come sei, non ti vogliamo differente. Papà si offenderebbe davvero se non le accettassi. Perché esiti? Credi che a Roger non farebbe piacere? Roger? No, non stavo pensando a lui. Perché dovrebbe interessargli? Sono andata e tornata prima che lui lo venga a sapere. Allora ci andrai, chiese Molly. Cinzia ci pensò per un paio di minuti. Sì, andrò, rispose alla fine. Direi che non è saggio, ma sarà piacevole e andrò. Dov'è Mr. Gibson? Lo voglio ringraziare, com'è gentile. Molly, sei una ragazza fortunata. Io, fece Molly, del tutto sorpresa da quell'aggettivo. Lei infatti sentiva che troppe cose stavano andando per il verso sbagliato e quasi che non sarebbero mai tornate a posto. Eccolo! Esclamò Cinzia. Lo sento nell'ingresso. E corse giù, posò le mani sul braccio di Mr. Gibson e lo ringraziò con una tale calorosa impulsività e in modo così grazioso e carezzevole che qualcosa della precedente approvazione dell'uomo per lei ritornò. Ed egli dimenticò per un momento la causa dello scontento che nutriva nei confronti della ragazza. «Là, là!» disse. «Basta così, mia cara. È giusto che tu mantenga le tue amicizie. Non c'è altro da dire in proposito». Penso che tuo padre sia l'uomo più affascinante che conosco, commentò Cinzia tornando da Molly. Ed è questo che mi fa sempre temere di perdere la sua buona opinione e che mi fa tanto agitare quando lui ce l'ha con me. E ora pensiamo a tutto ciò che riguarda questa visita a Londra. Sarà delizioso, vero? Posso farmi bastare di cisterline fino a lì e in un certo senso sarà un grande conforto andarmene da Hollingford. Ah sì, fece Molly piuttosto malinconica. Sì, sai che non intendo dire che sarà un conforto allontanarmi da te. Quello sarà tutto fuorché un conforto. Ma dopo tutto una città di provincia è una città di provincia. E Londra è Londra. Non serve che sorridi delle mie verità lapalissiane. Ho sempre avuto una simpatia per Monsieur de la Palisse. Monsieur de la Palisse. En perdant sa vie, encore tôt avant sa mort, il était en vie, cantò. Con così tanta allegria che Molly rimase stupita, come sempre, da come il suo umore era cambiato rispetto alla triste decisione di rifiutare l'invito solo mezz'ora prima. All'improvviso Cinzia prese Molly per la vita e iniziò a ballare un valzer insieme a lei intorno alla stanza, mettendo in pericolo imminente i vari tavolini carichi di oggetti d'arte, come Mrs. Gibson adorava chiamarli, che stipavano l'ambiente. Lei però riuscì a evitarli con la sua solita maestria. Alla fine però si arrestarono entrambe sorprese dallo sbalordimento di Mrs. Gibson, che ferma sulla porta osservava il turbine che imperversava davanti a lei. Parola mia, spero solo che non stiate ammattendo tutte e due. Cos'è mai tutto questo di grazia? È solo perché sono felice di andare a Londra, mamma, rispose Cinzia, pudica. Non sono certa che sia proprio conveniente che una ragazza fidanzata sia così fuori di sé alla prospettiva di divertirsi. Ai miei tempi, il nostro grande piacere, quando i nostri innamorati erano lontani, era pensare a loro. Io direi che questo mi faceva star male, perché così avreste ricordato che erano lontani e questo avrebbe dovuto rendervi infelici. Ora, a dirti la verità, per un momento mi ero dimenticata completamente di Roger. Spero non sia una cosa molto cattiva. Osborne sembra prendersi anche tutta la mia parte di preoccupazione per Roger. Che brutta cera aveva ieri. Sì, confermò Molly. Non sapevo se qualcun altro oltre a me l'avesse notato. Sono rimasta proprio scioccata. Ah, disse Mrs. Gibson, temo che il giovanotto non vivrà a lungo. Ho proprio paura di no, scuotendo la testa con fare sinistro. Oh, cosa succederà se muore? Esclamò Molly, sedendosi di botto e pensando a quella strana moglie misteriosa che non aveva mai fatto la sua comparsa e della sua esistenza non si parlava mai. E con Roger lontano oltretutto. Beh, sarebbe naturalmente molto triste e non ho dubbi che ne soffriremo molto. Ho sempre voluto bene a Osborne. In effetti, prima che Roger diventasse, per così dire, la mia carne e il mio sangue, Osborne mi piaceva di più. Ma noi non dobbiamo dimenticare i vivi, Molly. gli occhi della quale si stavano riempendo di lacrime per i terribili pensieri che aveva fatto. Il nostro caro e buon Roger farà, ne sono certa, tutto ciò che può per sostituire Osborne in ogni modo, e il suo matrimonio non dovrà essere posticipato a lungo. Non parlare di queste cose nella stessa frase in cui metti in dubbio la vita di Osborne, mamma, disse subito Cinzia. Beh, mia cara, si tratta di un'idea molto naturale. Per amore del povero Roger, capisci? Si desidera che non sia un fidanzamento tanto, tanto lungo, e stavo solo rispondendo alla domanda di Molly, dopo tutto. Non si può evitare di seguire il corso dei propri pensieri. La gente muore, sai, i giovani tanto quanto i vecchi. Se mai sospettassi che Roger facesse questi ragionamenti, affermò Cinzia, non gli parlerei mai più. Come se fosse possibile, commentò Molly, accalorandosi a sua volta. Sai che non potrebbe mai succedere e tu non devi neanche immaginare che lui possa farlo, no, neanche per un momento. Da parte mia, non capisco che male c'è, lamentò Mrs. Gibson. Un giovanotto ci colpisce perché ci è sembrato molto malato e di certo me ne dispiaccio, ma la malattia porta molto spesso alla morte. Sicuramente su questo converrete con me, dunque che male c'è a dirlo? E poi Molly, chiede cosa accadrà se lui muore. E io tento di rispondere alla sua domanda. A me non piace pensare o parlare di morte più che a chiunque altro, ma mi riterrei mentalmente gracile se non sapessi guardare alle conseguenze della morte. Anzi, penso che ci sia un comandamento in merito da qualche parte nella Bibbia o nel libro delle preghiere. Ti aspetti qualcosa dalle conseguenze della mia morte, mamma? Chiese Cinzia. Tu sei veramente la ragazza più insensibile che abbia mai conosciuto, dichiarò Mrs. Gibson profondamente colpita. Vorrei poterti dare un po' della mia emotività perché ne ho troppa, data la mia felicità. Non parliamo più dell'aspetto di Osborne. 10-1 che era solo un affaticamento temporaneo e un po' di preoccupazione per Roger, o forse un lieve attacco di indigestione. Sono stata molto sciocca a imputarla a qualcosa di più grave. Il mio caro papà si dispiacerebbe se sapesse che l'ho fatto. I medici non vogliono che altre persone facciano congetture sulla salute. La considerano un'offesa al loro particolare ambito professionale e di certo hanno ragione. Ora, pensiamo al tuo abbigliamento, Cinzia. Non riesco a capire come tu abbia speso il tuo denaro senza farne mostra. Mamma, potrà suonare un po' antipatico, ma devo dire a te, a Molly e a chiunque altro, una volta per tutte, che dal momento che non voglio e non ho chiesto più denaro di quanto mi spetta, non ho intenzione di rispondere ad alcuna domanda su come l'ho speso. Non lo disse con tono irrispettoso, bensì con una quieta determinazione che per un po' soggiogò la madre, anche se spesso, in seguito, quando Mrs. Gibson e Molly si trovavano da sole, la prima iniziava a domandarsi per cosa Cinzia avesse mai potuto usare quei soldi. E perseguiva ogni singola congettura tra valli e foreste di dubbi, finché ne era esausta. E quell'eccitante diversivo per quel giorno veniva allora abbandonato. Al momento, tuttavia, ella si limitò alle incombenze pratiche immediate. Il talento per la modisteria e gli abiti, innata sia nella madre che nella figlia, presto sottopose alla loro attenzione molte intricate questioni di gusto e di inventiva. E tutte e tre si misero al lavoro, affinché gli abiti vecchi sembrassero belli come nuovi.